versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon martedì 26 di maggio, siamo in diretta a 16:32, primi 20 secondi dagli studi di Milano di Radio 24. Grazie per essere in ascolto, per scaricarci in podcast, continuate a scriverci per proporre temi di trasmissione, versione di Oscar @radio24.it, per intervenire oggi 800 24 00 24 e il numero di telefono 349 238 6666, lo sapete, per gli sms. Dico subito di che si tratta. Si tratta di una lotta, battaglia, insomma, pluriennale dell'Italia in Europa, su cui non riusciamo a spuntarla, della tutela, del riconoscimento del Made in Italy, di prodotti quindi fondamentali per la nostra vocazione manifatturiera, che devono essere chiaramente identificati in quanto tale e protetti dalla contraffazione, quindi etichettati in quanto tale, tutelati in quanto tale in tutta Europa, con un riconoscimento esplicito da parte dell'Unione Europea su questo. Stiamo parlando di tutti i prodotti del tessile, abbigliamento, calzature, ceramica, legno, oreficeria. Ecco, sono anni e anni che questa battaglia italiana, via via che i governi si succedono, rimbalza, per così dire, sulle istituzioni europee, perché ovviamente il bizantinismo delle regole comunitarie è tale che i paesi che sono meno interessati, per così dire, a darci questo legittimo riconoscimento per le nostre eccellenze fanno melina, le cose rimbalzano e così via. Mi limito a sintetizzare gli ultimi passaggi, perché poi chiedo a voi in ascolto, visto che si parla delle regole europee dure da buttare giù per i greci, se, ma non solo per i greci, qua voglio dire ci sono anche interessi diretti nostri che da anni e anni non vengono soddisfatti per questo bizantinismo delle regole un po' asimmetriche, diciamo così, ecco, nei confronti di chi è più debole, o per meglio dire non si sa tutelare abbastanza bene, soprattutto gli organi tecnici, con un numero di direttori generali all'interno della burocrazia della Commissione Europea a Bruxelles, notoriamente a stragrande maggioranza di paesi nord europei, e anche gli spagnoli ne hanno proprio di noi in Italia. Questa è colpa nostra. Ma allora di che si tratta? Pensate che solo ad aprile del 2014 il Parlamento Europeo aveva votato a favore di una proposta di regolamento dell'Unione Europea per la tutela dei consumatori, che conteneva anche appunto il riconoscimento e la tutela del Made in. All'epoca c'era Antonio Tajani, commissario europeo, ma insieme ad altri commissari come Tony Borg aveva avuto una larga maggioranza al Parlamento Europeo. Poi la cosa si è arenata al Consiglio Europeo, come sempre. Durante il semestre di presidenza italiana, la seconda parte dell'anno scorso, con Matteo Renzi, presidente di turno, sapete che la presenza di turno conta molto poco oramai, perché c'è una presenza stabile del Consiglio. Comunque, in ogni caso, il governo ci provò e rimbalzò, perché i paesi nord europei dissero: ma meglio verificare meglio in tutte le filiere, nei settori, cosa ne pensano i paesi. E così partì un rapporto per verificare che cosa se ne pensava davvero di fare o meno questa tutela, a quali settori estenderla, a quali non applicarla. Adesso dovremmo essere arrivati, tra due giorni ci dovrebbe essere un consiglio della competitività con la presenza di turno della Lettonia adesso, nel semestre europeo, e c'è proprio all'ordine del giorno per l'ennesima volta il dossier su questo Made in. Se non che, da quello che si apprende, siamo di nuovo a una versione ristretta delle cose. Allora, per tentare di fare un punto sulla situazione, telefonateci se lavorate in ciascuno di questi settori del Made in Italy, diteci se avete perso la speranza o se invece credete davvero che poi questo riconoscimento europeo serva. Abbiamo invitato oggi pomeriggio la vicepresidente di Confindustria per l'Europa, che segue direttamente, accanitamente, questo dossier, chiaramente. Lisa Ferrarini, buon pomeriggio e grazie di essere con noi, dottoressa Ferrarini. Buon pomeriggio a lei, grazie per la definizione in modo estremamente accanito. No, beh, purtroppo è così. Effettivamente sono sul pezzo, ecco, come si suol dire. Esatto. Allora, fa capire un pochino ai nostri, perché già vedo gli sms che arrivano, che sono sconfortati. In realtà, questo provvedimento, primo, ci deve spiegare che cosa può aggiungere di vera tutela a tutti questi settori dell'eccellenza italiana, cioè una cosa formale o sostanziale, e che cosa ne può derivare. Secondo, come stanno le cose, cioè quali sono le speranze che non si vada all'ennesimo nulla di fatto, oppure se davvero bisogna accettare un compromesso al ribasso levando settori interi che non verrebbero tutelati. Allora, cominciamo con lo spiegare però questo provvedimento, se passasse che cosa rappresenterebbe davvero? Lo spiegare, guardi, il provvedimento è molto semplice. L'Europa è l'unica area economica del mondo che lascia facoltativa l'etichettatura d'origine. Cosa significa? Significa che se noi esportiamo verso gli Stati Uniti o verso la Cina abbiamo l'obbligo di scrivere l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto, per cui dove è avvenuta l'ultima trasformazione importante, quindi se in Italia made in Italy, se in France made in France, made in Germany made in Belgium e via andare. Se invece importiamo dagli Stati Uniti o dalla Cina come Europa, questi due paesi non hanno l'obbligo di scrivere da dove proviene il prodotto, per cui manca completamente la trasparenza nei confronti del consumatore, che credo che voglia sapere cosa acquista, da dove proviene il prodotto e vuole scegliere il rapporto qualità prezzo origine. Manca tutto il rapporto di reciprocità. Io credo che questo sia fondamentale in un rapporto di libero scambio a livello mondiale. Ma però siccome detta così, Ferrarini, è elementare buon senso dire non esponiamoci ulteriormente a una simmetria che avvantaggia cinesi e americani, ma però per quale ragione in realtà lo schieramento dei paesi membri dell'Unione Europea è tragicamente spaccato e in realtà sembra sempre prevalere poi chi non la vuole? Perché sì, infatti siamo veramente in questo momento molto divisi, con un blocco di minoranza, un blocco di maggioranza e paesi molto manifatturieri, evidentemente, o comunque il blocco del sud dell'Europa, che è molto legato a, noi li abbiamo definiti ormai gli amici del Made In, e il blocco del Nord, che è quello grosso, che effettivamente fa capo ovviamente alla Germania, che non lo vuole. Perché? Ma perché alla fine probabilmente hanno degli interessi talmente forti di produzione del loro manifatturiero delocalizzato da tantissimi anni in paesi terzi, in paesi che erano paesi poveri, che adesso stanno per fortuna crescendo, dove ovviamente il costo del lavoro è molto più basso, dove ci sono tante, forse anche direi meno controlli, dove sono possibili prodotti additivi che in Europa non sono consentiti, per cui probabilmente hanno convenienza a lavorare in quei paesi lì. Un esempio, una semplicissima maglietta può essere tinta con dei prodotti al cromo esavalente, che magari può avere un rilascio sulla pelle anche molto dannoso, e quindi creare dermatiti, creare intolleranze, creare tutta una serie di problematiche che alla fine ci portano dal medico e ci domandiamo come mai magari ci bolliamo di macchie rosse sulla pelle o di viscotte, no? E dopo andiamo a scoprire che la cessione del colore di queste magliette qui. Ci sono tante cose, ma vede, noi non chiediamo niente, guarda, è una cosa di una semplicità talmente estrema il fatto di poter lasciare decidere il consumatore di quello che compra, di quello che vuol scegliere in rapporto al qualità, al prezzo origine, che la vedo un sistema talmente sciocchino da parte della Germania di nascondersi dietro a un dito, perché alla fine mi deve spiegare la Germania perché non lo vuole, e quindi deve spiegare al mondo intero che non lo vuole perché ha bisogno di fare probabilmente un qualche giochetto che non è consentito. Le faccio aspetti, la interrompo, perché la radio funziona così, ogni tanto bisogna interrompersi a vicenda, perché sennò poi i discorsi lunghi, ma tanto poi il tempo c'è. Alcuni ascoltatori le chiedono subito per SMS, ma senta, Ferrarini, ma visto che la cosa è come dice, ma alla fine il Presidente del Consiglio italiano, visto che stiamo parlando di settori che hanno un impatto fortissimo, sono il traino a breve della crescita italiana, le 4A, il Made in Italy e così via, ma i politici italiani hanno fatto davvero tutto quello che dovevano fare per battere i pugni, fare di questa questione una questione vitale nel rapporto con i tedeschi, nel rapporto italo-tedesco, secondo lei, in questi anni, Ferrarini? Allora, guardi, come diceva lei prima, benissimo, il semestre di presidenza purtroppo è anche partito in un momento anche abbastanza infelice, eravamo d'estate, nuova commissione, tutto quello che c'è stato, e quindi è stato veramente di passaggio. Secondo me adesso il governo ha preso assolutamente, anche prima, ma adesso in maniera molto più determinata, ha preso in mano il dossier. È chiaro che l'Europa è comunque... Però vede, posso, le faccio, scusi, prego. Io sono un concreto, cioè, come sono amico e conosco Carlo Calenda, lo so che il vice ministro del Mise fa tutto il possibile, che è il delegato, diciamo così, a tutte le trattative commerciali internazionali da parte del governo. Però questa è una questione sulla quale forse il Presidente del Consiglio prende il telefono e parla direttamente con la me, dicendo: guarda, questo per noi è fondamentale, e adesso non voglio dire nei dettagli, però si deve sbloccare. Sono anni e anni, o no? È dal 2003, aprile 2003. Sono 12 anni. È un qualche anno, eh? 12 anni. Cosa dice? Esatto. Direi di sì. Guardi, secondo me hanno fatto un buon lavoro, hanno scritto la Presidenza del Consiglio, ha scritto a Juncker, probabilmente manca, ecco, questo ultimo passaggio qui di questa telefonata alla Merkel, che io mi auguro che il Presidente del Consiglio la faccia, e poi credo che comunque la storia dell'integrazione europea sia in larga parte frutto di compromessi tra i suoi membri, no? E quindi io credo che ci sia una maniera per mettere d'accordo i grandi paesi fondatori, comunque a vocazione manifatturiera. Poi ricordiamo, ma la Francia sta con noi o contro? La Francia sta con noi, assolutamente sta con noi, sta con noi la Spagna, sta con noi la Francia, il Portogallo, Romania, Bulgaria, Cipro, Slovenia, Croazia, Grecia. Questi sono i paesi che stanno con noi, però cioè significa che Olanda, Austria, no, invece. No, assolutamente. Beh, guardi, perché il fatto che la presidenza lettone abbia promosso questo studio d'impatto e abbia tirato fuori praticamente un settore basta, perché l'altro si parla di ceramica, ma si parla solo di tableware, quindi c'è tutto i piatti, le stoviglie casa, ma insomma per me ceramica vogliono dire rivestimenti, vogliono dire sanitari, vogliono dire... cioè, noi dobbiamo ricordarci che se il manifatturiero è il motore della crescita e dell'occupazione, va sostenuto in tutto e per tutto per agganciare la ripresa. E quindi io assolutamente, perché mi sto battendo come una pazza? Ma perché questo darebbe sicuramente anche opportunità di crescita, di reshoring, rientro delle aziende. Appunto, lo spieghi, perché non è detto che tutti sappiano cos'è il reshoring. No, perché credo che alla fine, secondo me, il valore del nostro Made in Italy è fatto bene, con qualità, professionalità e sicurezza, e i controlli che abbiamo, sia un plus, un valore aggiunto che nel mondo ci abbia dato tante grandi soddisfazioni. Per cui il fatto di avere obbligatorio questa origine del prodotto, beh, credo che a livello di competitività, a livello mondiale, ci dia qualcosina in più. Ma aspetti, io adesso le faccio un'altra domanda, interrompetelo, perché adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale e torniamo. Ma in base a quale criterio si dice, piuttosto che il criterio generale, come ha spiegato prima all'inizio, per simmetria mettiamo per tutti l'obbligo di etichettatura informando il consumatore, ma per chi e in base a cosa dice invece ma questo settore sì e questo settore no? Che significa analisi di impatto? Perché il modo di non applicarla in generale dovrebbe avere una giustificazione che a me sfugge, se ci spiega questo punto, perché chi è a casa non ha capito bene. Tra un minuto, intanto strada. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:47, primi 20 secondi, nocciolo della trasmissione. Renzi, per favore, trova il tempo, visto che lo sappiamo che si deve occupare delle elezioni regionali, 7-1, 6-1, 7-0, 4-3, ma adesso, perché la cosa sta maturando per entro il 28 maggio, quindi ci siamo, fai questa cacchio di telefonata alla Merkel. Dopo 13 anni, l'obbligo di etichettatura procura per la tutela del Made in Italy deve passare in Europa. Non è che ogni volta c'è sempre un problema che riguarda gli altri che è prioritario. Fai questa benedetta telefonata, è proprio il caso. Ecco, questa è esplicitamente, brutalmente la sintesi di questa telefonata. Però, per capirci quali sono le gabole che potrebbero scattare invece per ridurre il vincolo a solo ad alcuni settori e continuare a tenerci fuori dalla porta, perché avete capito che c'è un'alleanza dei paesi nord europei, mi dispiace ma è così dopo tanti anni ed è chiaro che è così, che non vuole che faccia questa roba, tutela soprattutto la seconda, il secondo paese manifatturiero, ma non piace troppo al primo, cioè alla Germania. In base a che cosa questa valutazione di impatto, Lisa Ferrarini, potrebbe dire questo settore sì e questo settore no? L'impatto su che cosa si misura? Ma perché noi stiamo studiando, cioè è da sempre che si chiedono per i settori che riteniamo di importanza strategica per il nostro paese, quindi sono il vero manifatturiero e quindi tutti sono manifatturieri, però questi sono quelli non di fase intermedia di lavorazione, sono le calzature, il legno arredo, la ceramica, la gioielleria, l'abbigliamento, sono quei settori che da sempre, dal 2003, stiamo portando avanti come strategici, veramente non che gli altri non siano strategici per l'amor di Dio, però poi si entra, ad esempio, se si entra nell'elettronica, se si entra nell'automotive, se si entra in un comparto ovviamente che è un pochino più complesso e che entra dentro comunque un sistema dove le catene del valore sono molto più internazionalizzate, esatto, le valutazioni intermedie degli input di produzione, esatto, sono molto più, no, non questo c'è invece dubbio. È un paio di scarpe che va direttamente al consumo, è un vestito che va direttamente al consumo, è un mobile che vai a acquistare, un anello, un bracciale, un gioiello che vai, esattamente la stessa cosa come la ceramica, e quindi noi la battaglia l'abbiamo sempre fatta su questi settori. Inizialmente erano molti di più, ma non proprio, c'è stato un blocco totale, ma proprio neanche di ascolto su altri settori, quindi ci si è concentrati già dal 2003 su questi cinque settori qua, e in questo momento la presidenza Lettone continua ovviamente sotto immagino a tentare di non venirne a capo. Però vede, le voglio dare un altro dato, sì. Negli 11 paesi amici del Made in, questa quota di mercato di produzione è una media del 65% di questi cinque settori qua, quindi vuol dire che sono altamente manifatturieri, certo, su questi settori, e quindi mi scappa da ridere quando vado a vedere gli altri dati sulle altre nazioni, per cui è inutile continuare a spaccarci la testa, questo porterebbe oltre 100.000 posti di lavoro in Italia, guarda che la contraffazione, dopo andiamo ad alimentare il falso, non c'è dubbio, andiamo ad alimentare la clandestinità, andiamo ad alimentare ovviamente un'illusione fiscale, perché mancano, certo, poi un gettito fiscale, mancano cioè anche qui ci vuole chiarezza sui posti di lavoro, come lavora la gente, in che condizioni lavora la gente, insomma ci sono tutta una serie di motivi per i quali questa è una roba sacrosanta, io l'ho definita una battaglia di civiltà. Ma perché non è possibile che nel 2015 siamo ancora qui a discutere se è giusto o sbagliato che i paesi che si definiscono civili non abbiano riconoscimento dell'origine del prodotto? Per me è una roba fuori da ogni grazia di Dio. Allora, naturalmente per voi che siete in ascolto mi dite, ma non si può tentare di bloccare qualcosa di interesse altrui? Certo, la politica è fatta dopo 13 anni anche di individuazione di strategie di interdizione. Caro mio, se non l'hai capito dopo 12 anni ti blocco esattamente una decisione sulla quale invece tu sei molto più interessato. Io sono convinto che l'Italia non è abile in queste cose, non le fa, e a furia di stare un po' troppo piegata e avendo poco supporto tecnico nella direzione generale della Commissione, ecco perché la prendiamo sui denti su questioni che sono essenziali, veramente prioritarie come impatto economico per la nostra struttura produttiva. Allora, due rapide telefonate e poi le commentiamo al volo. Cominciamo con Maria dalla provincia di Como. Maria, prego. Sì, buonasera. Volevo dire alla signora che giustamente si batte con le unghie e con i denti per il Made in Italy, che uno dei settori di eccellenza che lei ha citato, che è proprio il tessile, è uno di quelli nei quali il Made in Italy non fa comodo a nessuno, perché la maggior parte delle produzioni viene fatta all'estero e viene spacciata come fatta in Italia quando in Italia non è fatta. Quindi questo è anche una di quelle ipocrisie che mette poi in crisi tutto il sistema. Maria, quindi... spiego a chi è in ascolto. C'è stata una polemica durissima per anni all'interno del settore tra chi identificava la tutela, l'ultima trasformazione come Made in Italy, e chi chiedeva invece che ogni passaggio della lavorazione fosse italiana. Ovviamente questa è una cosa che rompe in verticale grandi gruppi rispetto agli altri. Maria si riferisce a questo. Ci sono esponenti storici, per esempio Marbera e così via, che si è battuto per anni per la versione più integrale della definizione. E questo è stato sicuramente una grande polemica che ha indebolito la posizione italiana. Però Maria, diciamoci le cose come stanno. La realtà è che l'etichettatura non passa, ma non per questo, non passa perché c'è un blocco di grandi paesi europei. Però hai fatto bene a ricordare che naturalmente sull'estensione e la prescrittività di ogni fase di lavorazione è cosa diversa da quella di cui stiamo parlando oggi. Marco da Genova, Marco prego. Pronto, volevo dire sì. Che al di là delle cravatte di Como, dove tutte arrivano dalla Cina, il tessuto e la manifattura. Se partiamo da quello che è l'industria elettromeccanica o elettronica, lei non riesce a trovare un relè che sia fabbricato in Italia. No, questo, ma l'abbiamo detto, infatti non stiamo parlando di Germania o in, sì. Da un'altra parte. Sì. Non riesce a trovare un alimentatore, non riesce a trovare quasi nulla di elettronico, di analogico, di no, digitale. Certo, però ripeto, non stiamo parlando di fare autarchia in questi settori, stiamo parlando di un obbligo di etichettatura e soprattutto in settori nei quali, ripeto, le catene del valore non hanno visto la delocalizzazione di massa come l'elettronica del consumo di massa, quindi non ho confuso, ecco. Però dica. No, ma però voglio dire che un paese che ha l'80% o il 90% come la Germania in questi settori, o la Francia anche lei, dove il 50% è in questi settori, basta pensare a Schneider, Siemens e compagnia cantando, ABB, ecco, è chiaro che hanno un'ostilità perché riescono ad avere prodotti largamente simili per il largo consumo, è chiaro, non c'è dubbio, ma fatti da loro in quei paesi, e quindi non gli conviene l'etichettatura. Ma qui ripeto, stiamo parlando del fatto che noi non ce l'abbiamo l'ultima etichettatura, quindi l'ultima fase nel tessile, nelle calzature, nella ceramica, nel legno. Non stiamo parlando dell'elettronica di massa, e continua a dirci no anche su questo. Quindi Renzi, fai sta telefonata o altrimenti non apriviamo un cavolo di cosa che interessa i tedeschi, punto, e a capo. E grazie Alice Ferrarini, e appuntamento con noi a domani.